Lunga. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Sulle Nazione, a Sulmona e in tutto il comprensorio Peligno, alcuni malintenzionati che utilizzano a fini delinquenziali la truffa dello specchietto rotto. Come agiscono? Si appostano in sosta in una via non molto ampia al passaggio di un'auto necessariamente vicino alla loro. Con mossa fulminea tirano fuori dal finestrino un corpo contundente, forse un cacciavite, col quale colpiscono proprio sotto il finestrino l'auto in transito, provocando un botto e un danno visibile. Poi, se vi fermate o ve ne andate, vi raggiungono subito, vi fermano e vi mostrano il loro specchietto retrovisore rotto. In realtà è rotto da tempo ed è già servito in molti casi. Dapprima si mostrano seccati del fatto che voi siete passati così vicino alla loro auto rompendo lo specchietto. Se poi mostrate qualche dubbio perché vi ricordate di essere transitati a qualche metro dall'auto in sosta, mostrano il danno alla vostra auto che coincide esattamente con l'altezza dello specchietto rotto. Propongono subito il ricorso al risarcimento assicurativo, poi all'improvviso diventano gentili, quasi amichevoli, vi propongono un accordo. Non vogliamo farti perdere tempo, lo specchietto costa 140 euro. Dammi 100 euro e chiudiamo qui. Dopo il danno la beffa, vi danneggiano volontariamente l'auto e poi vi chiedono soldi per un danno che non avete fatto, in quanto lo specchietto era già rotto. I malcapitati automobilisti... Quanti di voi sono incappati nella banda dello specchietto rotto? A me è successo almeno un paio di volte, una volta anche parecchi anni fa, avevo i piccoli in macchina, ero particolarmente nervoso, non mi è bastato prendere il telefono e fare il segno di chiamare qualcuno che sono scappati, volatilizzati. Beh, sembra quasi qualcosa ormai di arcaico, di vetusto. Le nostre città sono attraversate da piccoli truffatori, dalla drunculi, da persone che si approfittano delle categorie più deboli, quelle più esposte, quelle più incerte nel relazionarsi a livello di performance attuale, in cui bisogna essere sempre vigili, bisogna avere sempre una sorta di sguardo indagatore, bisogna saper valutare le intenzioni di ogni persona che abbiamo avanti. Io ho un ufficio in un palazzo datato degli anni 20, abitato soprattutto da persone anziane, da pensionati. Puntualmente tutti i pomeriggi mi suono al campanello, suono al mio campanello, suono a quello delle persone che vivono nel mio pianerottolo. C'è sempre un ragazzo sorridente, divertente, molto amico, sembra che ci siamo conosciuti chissà da quanto tempo. Sarà perché anche io ormai comincio a avere le fattezze da Umarell e probabilmente magari mi prende un momento di particolare perplessità meridiana, che comincia a dirmi con tono molto affabile che in realtà mi propone un grande affare legato a non so bene se le mie bollette del telefono, le mie bollette del gas, le bollette della luce, a questa sorta di badge incomprensibile, unto e bisunto, con una foto illeggibile, con una sigla che non si capisce quale sia la provenienza. Ha in mano una specie di cartellina con delle contenitori di cellophane che tiene anche lì dei fogliati. E capisco che il suo scopo è soltanto quello di farmeli firmare. Siccome accade puntualmente, accade in media una volta o due a settimana, ormai è il mio divertimento, lo faccio parlare, gli faccio dire, mi fingo ancora più rincoglionito di quello che posso sembrare un mesto pomeriggio qualsiasi. Beh, poi alla fine comincio a minacciarlo, oppure lo prendo in giro, oppure tocco nel profondo la sua anima, dico: ma non ti vergogni per quattro soldi portare via le risorse che hanno questi poveretti delle porte accanto, inventando che tu c'hai una bolletta, inventando che tu gli fai un grande affare, quando in realtà è soltanto una truffa. Oramai quando mi riconoscono scappano a gambe levate come se fossero dei ladri giù per le scale, ma nessuno li ferma, nessuno dice niente. Questa cosa avviene nella totale impunità. Questa è una delle tante truffe urbane. Per oggi vogliamo aggiornare quello che è l'elenco delle piccole truffe e danni delle persone che meno hanno possibilità e risorse di reagire, anche soltanto mandando una persona a quel paese, anche soltanto valutando che quella persona tanto gentile in realtà gentile non è, ma vuole portarti via il portafoglio. 800240024. Come ti chiami? Mi chiamo Gabriele. Chi sei tu in realtà? Sono quello che ha inventato la truffa dello specchietto. E cosa consiste? Prendere lo specchietto della propria auto, spaccarlo, poi inserirsi in una strada stretta dove possibilmente passano parecchie macchine. Non appena passa la vittima designata, colpire la sua macchina con una pietra o un qualcosa da provocare un forte rumore, così la persona crede che ti abbia beccato lo specchietto mentre tu eri parcheggiato. E a quel punto che succede? Con l'aiuto di un complice, mentre io gli faccio vedere lo specchietto rotto, il mio complice chiude lo specchio. 800240024, c'è subito Roberto per un veloce aggiornamento. Roberto, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. A me è capitata la stessa esperienza. Nell'agosto del 2006 erano degli zingari che si sono messi, diciamo, in colonna vicino a un semaforo. Io avevo, diciamo, passato a sinistra di questa macchina e questo aveva allungato la mano, diciamo, non mi aveva spaccato lo specchietto, però il suo era già rotto. E dopodiché, tra marito e moglie con i due figli, inventandosi che avevano avuto chissà quale spavento, proponeva, dice, vabbè, dammi 50 euro che lo prendiamo anche da un rottamaio lo specchietto. Ho detto, guarda, io faccio una cosa, faccio intervenire qualcuno, chiamiamo subito i vigili o i carabinieri, dei due il primo che esce, poi risolviamo la questione. Ha messo la prima, ha sgommato e se n'è andato. La stessa cosa ho fatto io, è molto semplice, ma questa capacità di reazione immediata riesce soltanto alle persone che conoscono il contesto, conoscono, esatto, la situazione. Normalmente si approfittano di donne solo, persone anziane, che si sentono già in colpa per il fatto che hanno rotto uno specchietto. Normalmente quel rumore che si sente è un sassolino tirato contro la macchina, quindi qualcosa si avverte veramente. Danilo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Ce n'è anche un'altra di truffa da annoverare. Percorrevo una strada statale a doppia corsia un paio d'anni fa e procedevo lentamente, insomma, 60 all'ora. A un certo punto mi sento suonare dietro e guardo lo specchietto, mi accosto e un tizio con la famiglia mi fa cenno di accostare. Io accosto, ero di Napoli, campano poi. Praticamente lui sosteneva che io l'avevo toccato col posteriore della macchina. Mentre mi faceva vedere dove, tira fuori un qualcosa dalla tasca e struscia la mia vettura, lasciando un segno bianco. La sua vettura era bianca. E io non avevo niente lì. Al che ho detto, chiama la polizia, ho detto, io non ti faccio nulla. Però se veramente se ne sentono di tutti i colori. Vabbè, che noi siamo, non inutile fare giudizi e scandalizzarsi, si sentono tutti i colori, ma la cosa che possiamo fare noi è raccontarlo, spiegarlo, sperando che qualche signora nel momento in cui sfettuccia la cipolla per buttarla nell'olio bollente si ricordi di quello che abbiamo detto. Mi scrive un ascoltatore un sms o in macchina una fotocopia di un articolo sulla truffa dello specchietto. Sorrido al truffatore, glielo mostro attraverso il vetro. Ridono di me e lo filmano. Alessandro Marchetti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Alessandro Marchetti è il nostro esperto, presidente della NASPOL, l'Associazione Nazionale Agenti e Sottufficiali delle Polizie Locali. Anche un sito, anaspol.it, ha tenuto un corso antitruffa per gli anziani del Lazio. Come aggiornerebbe il suo corso? Quale sarebbe il master successivo per gli anziani per non essere truffati? Ma dobbiamo intanto veramente diffondere il più possibile l'esistenza di queste truffe, perché molto spesso abbiamo notato che proprio attraverso la prevenzione si riesce ad evitarle. Alcuni anziani ci hanno raccontato, dice sì, ho saputo che di questa storia dello specchietto e mi hanno detto di chiamare la polizia. E quando l'ho fatto se ne sono andati. Questo è uno dei tanti meccanismi. Dobbiamo fare in modo tale che si sappia che esistono dei truffatori ben vestiti e ben, a volte con belle parole, possono coinvolgerci. Una volta che siamo dentro nel loro discorso ci perdiamo, hanno una grandissima capacità oratoria, ci perdiamo e ci fanno fare quasi tutto quello che vogliono. Siamo molto più preoccupati per gli anziani che, devo dire, per la truffa dello specchietto, che solitamente colpisce persone un po' più, diciamo così, magari un po' più giovani. Invece la truffa per gli anziani colpisce solitamente dai 65 anni in su, e sono truffe che fanno malissimo, perché un anziano truffato è un anziano che si sente inutile per la società. E diventa un problema per lui molto più del danno economico. Senta, ma c'è stata un'evoluzione anche nella truffa dello specchietto, con il pongo agiscono oggi. Sì, con il pongo, ecco, se vogliamo aggiornare questa, con il pongo adesso c'è un'altra, tirano il pongo sulla macchina e il pongo del colore della propria macchina e dicono, ecco, mi è strusciato, c'è la strusciata. E lì c'è il giochetto del colore, comunque attaccano il discorso e poi sappiamo tutti come va. Quindi bisogna fare sempre molta attenzione e chiamare le forze di polizia quando ci sono dubbi e sospetti di incidenti non causati. Sentiamo Enrico, buongiorno Enrico, 800240024, aggiornateci sulle truffe da strada. Enrico. Buongiorno, io devo segnalare che ho subito questa truffa con amarezza, perché guidavo una macchina non di mia proprietà e il fatto mi ha ha subito insospettito, però per evitare discussioni con chi me l'aveva data, visto che non avevo riportato danni evidenti, ho accettato. Ma la questione che mi... Quindi ha pagato lei? Sì, io ho pagato. Ma la questione... Quanto le hanno chiesto? 50 euro. Ah, beh, sì, perché non sono cifre che uno poi, alla fine, uno sì, preferisce non discutere, però ne fanno tanti durante il giorno. È oggetto di trattativa i 50 euro, perché non è stato istantanea la cosa, mi avevano chiesto di più. Ma era consapevole che la stavano truffando? Ha preferito... Sì, ero consapevole. Quindi ha subito un ricatto per non entrare in collisione, esatto. Ecco, perché sì, non è da lei. Ma volevo segnalarle, Gianluca, La questione è che io poi ero rimasto senza una lira, avevo solo quelle, ho spuntato i 50 euro perché ho fatto vedere che non c'avevo niente. Io ho detto, beh, dammi qualche spiccio, dammi 5 euro, 10 euro, perché ero consapevole che mi stavano truffando. Questo signore con un sorriso ironico ha tirato fuori dalla tasca una manciata di 50 euro, saranno state, che ne so, 5.000 euro, ma dico tante, capisce? Proprio e per tante. Dirle che lui non aveva bisogno dei suoi soldi? No, che non c'aveva spicci, dice, vedi, sono tutte da 50, non c'ho spicci da darti, mi spiego? Molto chiaro, Roberto da Milano. Ah, buongiorno, volevo solo far presente che nel palazzo dove vivo, nel quale ci sono molti anziani, si verificava quasi tutti i giorni che venissero questi qui, come ha detto lei prima, no? Con questo foglio di carta in mano, questa cartellina, per i contratti luce, gas, soprattutto della luce. Alla fine mi sono stancato, sono uscito fuori dall'appartamento, li ho minacciati pesantemente, ma veramente pesantemente, anzi fra l'altro ho preso anche un bastone, tanto per far capire che sì, funziona. Anche un altro ascoltatore mi ha detto bisogna sempre scendere con l'accetta in mano. Sì, sì, ma io ho un bastone e un manico di un piccone. Lo tiene sempre vicino alla porta il manico del piccone? Sì, proprio dove sono gli ombrelli. Ah, in mezzo agli ombrelli c'è il manico del piccone. Sì, no. Bastone, sì. Dove si compra? È ferramenta? No, si compra ferramenta, qualsiasi ferramenta ce l'ha o nel mercato. Lo vendono anche staccato dal piccone? Sì, lo vendono staccato, anche nei mercati rionali. Paesali, ma per portarlo eccetera. A casa se lo fa incartare? Come fa a girare per strada con un manico? No, lo porto, tanto così almeno... Fa finta che è zoppo e ci si appoggia? Esatto, non faccia... Ah, ecco, sei finto claudicante e col manico di piccone adesso è tranquillo. Vabbè. No, comunque no, un momento, dopo questa faccenda qui, dopo due o tre volte che mi sono incazzato, ho convinto il condominio a mettere la videosorveglianza. Sì. E poi dopo la terza volta di queste sceneggiate che ho fatto non sono più venuti. Sarà un caso, però secondo me si sono sparsi la voce. Grazie, fermiamoci un attimo. Traffico, a tra un istante. Melog, cronache meridiane. Sono andato a pigliare. È entrato in casa, mi ha cominciato a dire: guardi, noi abbiamo dei macchinari che si depura l'acqua. Sì, però dice: senta signora, questo macchinario distrugge le cose d'oro, se c'ha qualcosa, l'oro, l'argento. Dice: guardi, se c'ha, metta tutto in un sacchetto. Allora io ho preso tutto il che c'avevo, e poi lui mi dice: senta, anche soldi, ma non voglio venire in mente, anche soldi hanno la filagrana con questo macchinario e si sciupano, anche se la collana e la mia tenina, guardi, che me l'ha attaccata lui. Dice, sa che si fa signora, io vado a prendere la macchina che per fare questa cosa, e questi sacchetti sarà meglio metterli giù in casa, che quella casa era della mia mamma. Io rimango lì su qui nell'ingresso, poi mi balena, dico io, miseria, non voglio andare giù anch'io. Arrivo in mezzo alle scale, il sacchetto non c'era più, me l'aveva messo lì sulla panchina nell'ingresso. Si mette a immaginare, tutto gli ho dato, dato tutto io. Quanti soldi ha portato via? Tanti. Mi dicevano anche i carabinieri ieri. Signora, guardi. Quante volte ci sente dire da una donna: tutto ti ho dato, ma non sono certi i sacchetti con gli ori, gli argenti, le catenine, i ricordini delle battesimi, delle cresime e degli anellini, e anche i soldi, perché c'è la filigrana con l'oro e l'argento dentro. Certo, sembra impossibile che una persona possa credere a una panzana del genere, una macchina per depurare l'acqua che danneggia, guarda caso, tutto ciò che c'è di prezioso in casa, e glielo dia dentro il sacchetto già bello pronto, impacchettato, e poi faccia uscire la persona con i sacchetti in mano come la banda Bassotti, però consenziente, consapevole, il legittimo padrone. Evidentemente hanno una capacità affabulatoria che va oltre la norma, riescono a essere convincenti, o le persone hanno un gran bisogno di essere convinte di qualcosa, che qualcuno si prenda a cuore la loro vita. Paola, buongiorno. Buongiorno a lei. Posso? Lei che truffa hanno applicato? Allora, hanno tentato, per fortuna, pura fortuna, nel senso che sabato siamo partiti dal... Ah, è fresca, fresca di giornata. Macchia, sì, è successo da poco, da pochi giorni. Niente, siamo partiti, il mio titolare davanti con la sua macchina, io dietro con la mia macchina. Coincidenza, facciamo un pezzo di strada assieme. Lui davanti, Melchiorre Gioia, quindi viale con tanti semafori a Milano. A un certo punto ho visto degli scooter, dei ragazzini con gli scooter, di solito questi sfrecciano tra una strada, tra una macchina e l'altra, e vanno. Questi qui stavano in giro a noi. A un certo punto ho visto che uno di questi si è affiancato alla macchina che avevo davanti, del mio titolare, ha messo una mano sotto il passaruota, tra la ruota e il passaruota della ruota posteriore. Io distinto ho suonato. Questi si sono girati, io gli ho fatto segno cosa state facendo, questi sono andati. A lui l'ho chiamato sul cellulare e ho detto: guarda che secondo me hanno fatto qualcosa alla tua ruota. Ci siamo fermati e infatti gli avevano tagliato la gomma. Ho scoperto... No, lei mi sta aprendo uno squarcio dolorosissimo nella mia vita. A me domenica è successa esattamente questa cosa e ho cambiato un treno di gomme, perché una gomma bucata improvvisamente una domenica in una strada, pensavo di aver preso una buca, ho dovuto cambiare le due davanti, poi mi hanno convinto a cambiare le due dietro, quindi ci ho rimesso, diciamo, mezzo stipendio così per una stupidaggine del genere. Quindi tagliano la gomma e poi cosa succede? Tagliata la gomma? E poi ho visto poi su internet alla sera, perché ho detto: ma è possibile che te la tagliano, punto e basta? No, tagliano la gomma, avvisano l'automobilista: guarda che hai la gomma sgonfia, chiaramente la persona era su da sola, si ferma, scende, magari anche questi si fermano con... Ah, l'aiuta a cambiare la gomma e gli solano. E gli solano quello che c'è in macchina. Ah, mi sembra logico, interessante. Ecco, mi sembra giusto. Gianfranco, buongiorno. Altra truffa. Gianfranco è caduto, truffa del sassolino mentre si passa in auto. Roberto. Eccoci qua. Truffa in tangenziale. Sì. Tangenziale di Padova, altezza dell'aeroporto, sorpasso un'auto, sento un botto, mi fermo a 50 metri, sento due zingari, e io gli dico: guarda che io non ti ho toccato. Loro mi fanno vedere lo specchietto rotto, gli dico: guarda che io non ti ho toccato. Questi mi dicono: no, tu hai rotto lo specchietto. Insistono, mi spingono vicino al guardarai e dico: io non ti do un cazzo, chiamo la polizia. Questo tira fuori un coltello, mi dice: o mi dai i soldi o tu te ne vai di là nella rampa per terra, e così finisce. Beh, questa è una rapina a mano armata vera e propria. Panico, momento di panico, manganello in macchina, super attrezzato, super preparato. Ah, siete tutti ben attrezzati. Il manganello lo teneva, dove lo teneva il manganello? Di fianco al sedile, qui sulla mia destra. Ma non ha fatto in tempo a estrarlo però? No, perché in quell'istante le posso assicurare che ti avvolge, ti prende un momento di panico, di paura, che non capisci più. E allora lasci perdere il manganello e non si fermi la prossima volta. Difatti non serve perché o lo usa o se no sta lì e fa compagnia alla leva del cambio. Però le persone civili normali, uscire col manganello in mano non è allora proprio... Le persone civili normali nemmeno lo portano in macchina, onestamente. Ho capito, perché... ma sa quante persone hanno la propria difesa? Lei ha mai provato a vivere in Prato della Valle o in centro? No, ma io c'ho un blocco a sterzo che sembra una mazza da baseball, se proprio vogliamo entrare nei particolari, ma non mi verrebbe mai in mente di usarlo, assolutamente, mai mi passerebbe per la mente. Roberto, invece, Roberto da Modena, bellissimo giovane. Buongiorno, dottore. Sì. Sì, sì, un bel giorno stavo andando in un parcheggio, mi affianco una macchina con un bellissimo giovane, barbatissimo, elegantissimo, ciao, mi fa questo. Io l'ho scambiato per un approccio gay. Un approccio gay. Vabbè, succede. Uno dice non mi interessa. Non gay, per l'amor di Dio. No, un giovane, vuol dire elegante, che si presentava bene, insomma. Io l'ho scambiato per il figlio di un amico. E come sta papà? Ah, tutto bene. Cosa fai qui? Insomma, poi dopo ne parlo con il mio amico. Dice, ma no, mio figlio non lavora più lì. Ah, beh, questo perché allora, l'aveva salutata? Qual era lo scopo? Mi è capitato a Bologna. Attenzione, ha avuto la sfortuna. Questo succedeva a Modena. A Bologna mi ferma con un altro, sempre stessa scena. Ciao, come stai? Allora io sono rimasto... Vada al punto, perché finisce la sigla e ci lascia con la suspense. Già, ho finito. Questo mi offre, dice, guarda, ti regalo un vestito. E poi te ne regalo un altro, basta che mi dai 50 euro. E com'è finita? E qual è il guadagno? Scusi, un vestito per 50 euro? Ma non lo so che vestito fosse, lui offriva. Vabbè, non gli dava niente, voleva solo dargli un po' di soldi. Un bel giovane, attenzione, se i bei giovani vi salutano, se non siete belle ragazze, c'è qualcosa sotto. A domani.